coperte dentro il mio dolore, mani coperte e occhi bui. Ogni prigione è così, ogni prigione è così. Sono la gioia, tu come ti chiami? Amico, esco domani. Sono il dolore e sto qui, perché tu esci e così. Noi prigionieri non parliamo mai, ognuno sa i fatti suoi, ogni rancore sta in noi. Ora ti mostro come è fatto un fiore, l'ho calpestato per lei, quando d'amore parlai. Tu parli straniero, grave il tuo respiro, però non si arrende mai. Sorridi mai, non c'è calore dentro quei suoi occhi, da come parli è lei. Solo che negli occhi suoi vivono gli sguardi miei. Le sue parole sono come rami, dunque nel cuore tuo fiori. Ricordo solo che gridai quando si conficcò tra le mie mani. C'era più sangue e poi, senza ragione, sparai. Che fai? Vedi, somigliano ai miei. Che strano tipo che sei. Stare con te è stato come un brido, ma oggi torno da lei. Sta attenta a quello che fai, là fuori è pieno di guai. Non vedo l'ora di abbracciarmi ancora, i lunghi capelli e quelle idee. Ingenuo e illuso che sei, la primavera brucia le mimose, gli sciocchi pensieri mai, fuori non la troverai.